Era l'8 settembre 1944, alle 3 del pomeriggio, in pieno combattimento contro bande titine. E spostandomi da solo per organizzare l'azione dei miei, in una dolina mi imbattei in due portaferiti tedeschi, sulla cui barella era steso, colpito a morte da una bomba di mortaio, un SS Grenadier di 16 anni. Vedendomi provenire dalla linea del fuoco, mi chiese con un soffio notizie dell'azione. Gli dissi che era un 8 più duro del previsto, ma prima del tramonto l'avremmo spuntata. Lui mi afferrò la mano, fissandomi negli occhi, e mi disse nella sua lingua: "Wir werden gewinnen, Herr Leutnant. Da wir haben recht." "Ti giuro", gli risposi, "che non ci fermeremo mai. Da wir niemals aufhören werden, bis wir gewonnen haben." E il ragazzo, nel filo di vita che gli stava sfuggendo, trovò la forza di sollevare il pugno stretto, regato di sangue, e di gridare al cielo: "Niemals, mai!" Ecco, è quel piccolo avverbio che io consegno a voi, giovani camerati.